L'uomo corre a vedere serie interminabili di film d'amore, ascolta canzoni d'amore, compone poesie d'amore, eppure il mondo è pieno di odio e di violenza. Non ti sembra che se la stia raccontando? Non ti sembra che qualcosa non torni? Forse quello che l'uomo definisce amore non lo è, e poiché ci è tanto odio in questo mondo, prenderemo in esame come sia possibile odiare anche con manifestazioni che apparentemente si direbbero di amore, e per questo faremo alcune riflessioni in merito all'odio nelle sue manifestazioni più nascoste. Qualcuno ha detto che l'odio è una forma prolungata di suicidio, e ancora che non c'è è lavoro più faticoso e logorante dell'odiare. L'odio lavora senza sosta giorno e notte, sgretola anima e cervello, e bisogna essere molto sciocchi per nutrire odio. Eppure, questo atteggiamento, nonostante sia assurdo, è molto comune. Generalmente, l'odio lo si vede nelle sue manifestazioni più comuni, come la violenza, l'uccidere o l'ira, ma esiste pure in quelle espressioni più sottili, e a volte anche approvate, etichettate addirittura come atteggiamenti cristiani. Sì, perché dobbiamo ricordare che il peccato non è sempre evidente. L'Eterno Dio rimproverò il popolo di Israele più volte, perché il peccato era nella piega delle loro vesti, cioè nascosto. Gesù riprese più volte i farisei, perché erano dei sepolcri imbiancati, cioè erano giusti di fuori, ma il loro intimo era pieno di ogni sorta di peccato. Consideriamo perciò cinque manifestazioni di odio nascosto. 1. L'odio si manifesta nel non parlare amichevolmente. Genesi 37, 1-4. Giacobbe abitò nel paese dove suo padre aveva soggiornato, nel paese di Canaan. E questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge coi suoi fratelli. Il giovinetto stava con i figli di Bila e con i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Or Giuseppe riferì al loro padre la cattiva fama che circolava sul loro conto. Or Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia, e gli fece una veste lunga fino ai piedi. Ma i suoi fratelli, vedendo che il loro padre lo amava più di tutti gli altri, presero ad odiarlo, e non gli potevano parlare in modo amichevole. L'amicizia è uno strumento attraverso il quale Dio rivela a ciascuno di noi le bellezze degli altri. Ci fa scoprire qualità e doni di qualcuno che prima ci era estraneo. Essa fa parte dei rapporti umani, soprattutto quando si è fratelli nella carne. Giuseppe aveva fratelli molto più grandi di lui, e questi, visto che Giacobbe lo amava più di tutti, si misero ad odiarlo. Il loro odio non si dimostrava in modo evidente o violento, anzi con lui avevano delle normali conversazioni, ma non si relazionavano in modo amichevole. L'amicizia è un grande dono di Dio. Un detto dice: chi trova un amico trova un tesoro. Infatti, si può vivere tutta una vita fianco a fianco di milioni di persone senza che nasca un'amicizia. È vero che l'amicizia non è indispensabile per poter vivere, perché essa nel banchetto della vita rimane un contorno e non un piatto principale, ma quando vi è questo rapporto spontaneo o reale, che dona senza chiedere, dobbiamo saperlo mantenere. Così quando si rompono certi rapporti amichevoli, quando non si è più liberi come prima, significa che è subentrato qualcosa che la Bibbia chiama odio. E forse è anche probabile che non si avverta nessun sentimento negativo, nessun sentimento di vendetta, ma il fatto che non ci si possa più aprire come prima dovrebbe portarci a rivalutare il rapporto. Spesso a far interrompere un'amicizia non sono cose gravi, ma semplicemente un atteggiamento di non apertura. La maldicenza e la mancanza di delicatezza, per citare due esempi, sono in grado di distruggere il più profondo rapporto di amicizia. Quante volte è stato distrutto un rapporto dalla maldicenza, o per mancanza di sensibilità, per rancore, per amarezza, o perché si ritorna sempre su certi torti? La vera amicizia resiste ad ogni attacco. Personalmente, quando una persona mi è amica, difficilmente perde la mia stima, anche se la vedessi compiere un'azione sbagliata, sarei propenso a giustificarne subito l'atto. Se la sorprendessi a rubare, penserei di aver visto male, che sia stata costretta da varie circostanze, che forse quello che ha preso lo poteva prendere. Tutto è possibile, anche che un amico possa sbagliare, ma la mia stima nei suoi confronti non cambierebbe dall'oggi al domani. Un'amicizia che crolla alla prima prova non è un'amicizia. E se lo fosse stata, la prova ha rivelato il punto debole di quel rapporto. Un'amicizia può terminare, ma se ciò accade senza chiarimenti, se si conclude con un tacito accordo pieno di dubbi e interrogativi, dobbiamo preoccuparci di capire se in noi non abitino quei risentimenti negativi, come già detto, definiti odio dalla parola di Dio. E chi odia, come i fratelli di Giuseppe prima o poi, colpisce. 2. L'odio si manifesta nel silenzio. 2 Samuele 13, 1-22. Dopo queste cose avvenne che Absalom, figlio di Davide, aveva una sorella di nome Tamar, che era bella, e Amnon, figlio di Davide, se ne innamorò. Amnon si appassionò a tal punto per Tamar, sua sorella, da diventarne malato, perché lei era vergine e pareva difficile ad Amnon di fare qualche tentativo con lei. Amnon aveva un amico, di nome Jonadab, figlio di Simea, fratello di Davide. Jonadab era un uomo molto accorto. Questi gli disse: «Come mai tu, figlio del re, sei ogni giorno più deperito? Non me lo vuoi dire?» Amnon gli rispose: «Sono innamorato di Tamar, sorella di mio fratello Absalom». Jonadab gli disse: «Mettiti a letto e fingiti malato. Quando tuo padre verrà a vederti, digli: fa, ti prego, che mia sorella Tamar venga a darmi da mangiare e a preparare il cibo in mia presenza, perché io lo veda e mangi quel che mi darà». Amnon dunque si mise a letto e si finse ammalato. E quando il re lo venne a vedere, Amnon gli disse: «Fa, ti prego, che mia sorella Tamar venga e prepari un paio di frittelle in mia presenza, così mangerò quel che mi darà». Allora Davide mandò a dire a Tamar: «Va a casa di Amnon e preparagli qualcosa da mangiare». Tamar andò a casa di Amnon, suo fratello, che era a letto. Prese della farina stemperata, l'intrise, preparò delle frittelle e le fece cuocere davanti a lui. Poi prese la padella, servì le frittelle e gliele mise davanti, ma egli rifiutò di mangiare e disse: «Fate uscire di qui tutta la gente». Tutti uscirono. Allora Amnon disse a Tamar: «Portami il cibo in camera e lo prenderò dalle tue mani». Tamar prese le frittelle che aveva fatte e le portò in camera ad Amnon, suo fratello. Ma mentre gliele porgeva perché mangiasse, egli l'afferrò e le disse: «Vieni a unirti a me, sorella mia». Lei gli rispose: «No, fratello mio, non farmi violenza. Questo non si fa in Israele. Non commettere una tale infamia. Io dove potrei andare piena di vergogna? E quanto a te, tu saresti considerato un infame in Israele. Te ne prego, parlane piuttosto al re, egli non ti rifiuterà il permesso di sposarmi». Ma egli non volle darle ascolto e, essendo più forte di lei, la violentò e si unì a lei. Poi Amnon ebbe verso di lei un odio fortissimo, a tal punto che l'odio per lei fu maggiore dell'amore di cui l'aveva amata prima. Le disse: «Alzati, vattene». Lei gli rispose: «Non mi fare, cacciandomi, un torto maggiore di quello che mi hai già fatto». Ma egli non volle darle ascolto. Anzi, chiamato il servo che lo assisteva, gli disse: «Caccia via da me costei e chiudile dietro la porta». Lei portava una tunica con le maniche, perché le figlie del re portavano simili desti finché erano vergini. Il servo di Amnon dunque la mise fuori e le chiuse la porta dietro. E Tamar si sparse della cenere sulla testa, si stracciò di dosso la tunica con le maniche e, mettendosi la mano sul capo, se ne andò gridando. Absalom, suo fratello, le disse: «Forse che Amnon, tuo fratello, è stato con te? Per ora taci, sorella mia, egli è tuo fratello. Non tormentarti per questo». Tamar, desolata, rimase in casa di Absalom, suo fratello. Il re Davide udì tutte queste cose e si adirò molto. Absalom non disse una parola ad Amnon, né in bene né in male, perché odiava Amnon per la violenza che aveva fatta a Tamar, sua sorella. Questo racconto dimostra che l'amore può trasformarsi in odio. Lo scrittore biblico afferma che Amnon amasse Tamar, ma molto probabilmente ha usato la parola amore al posto di passione. Infatti, Amnon provava una grande passione sessuale per sua sorella, al punto da violentarla. L'odio che provò in seguito era reale, perché aveva soddisfatto la sua concupiscenza e lussuria al prezzo di far del male a sua sorella. Questo odio è quello più comune, allontana l'oggetto che ha offeso. L'aspetto che interessa a noi riguarda Absalom, che tacque con Amnon perché lo odiava. Quando si è terribilmente offesi, spesso non si reagisce, ma dentro il nostro cuore si covano cose non buone. Il silenzio si trasforma in odio. Dobbiamo stare attenti al nostro mutismo. A volte non si parla perché non si sa rispondere o perché non si vuole colpire. Anche Gesù a volte tacque per non dover ferire la persona. Ma se il silenzio produce in noi dei risentimenti, allora stiamo attenti perché spunta l'odio. Io non credo che di fronte alle ingiustizie si possano tenere degli atteggiamenti indifferenti o neutrali. O si odia o si ama. Gesù ordinò di pregare per coloro che ci fanno del male, e se noi non abbiamo un atteggiamento positivo, allora non ci rimane che un atteggiamento negativo, e questo è odio. Paolo, conoscendo la nostra natura, ingiunse di non essere vinto dal male, ma di vincere il male con il bene. Il termine vincere rende l'idea di un combattimento, di una reazione. La neutralità non esiste in guerra. Dobbiamo reagire positivamente quando si ricevono delle ingiustizie. La via di mezzo, ricordiamo, è già odio, anche se la reazione più comune a molti è quella di passare sopra alle offese, di metterci una pietra sopra. Purtroppo seppelliscono i loro rancori ancora vivi. Perché possiamo vivere in pace con noi stessi e con il nostro prossimo, dobbiamo prima fare un funerale alle ingiustizie subite. Dobbiamo ritenerle inesistenti e non ci aspettiamo più delle scuse o dei rimborsi. Solo allora possiamo in seguito metterci una pietra su. È difficile amare, vero? Difficile perdonare. Se non vogliamo covare dell'odio nel nostro cuore, confessiamo a Dio il nostro odio. E Lui, secondo le sue promesse, ci farà ottenere misericordia. Che l'Eterno ci dia una coscienza sempre più nitida del grande dono che ci ha elargito in Cristo Gesù. Come il lupo si traveste da agnello, così spesso camuffiamo anche il nostro odio con atteggiamenti d'amore apparente. 3. L'odio si manifesta nel fingere. Proverbi 26, 24, 28. Chi odia parla con dissimulazione, ma dentro medita l'inganno. Quando parla con voce graziosa. Non fidarti, perché ha sette abominazioni nel cuore, il suo odio si nasconde sotto la finzione, ma la sua malvagità si rivelerà nell'assemblea. Chi scava una fossa vi cadrà. E la pietra torna addosso a chi la rotola. La lingua bugiarda odia quelli che ha ferito, e la bocca adulatrice produce rovina. Forse non tutti saremo d'accordo con quello che è scritto, ma quando si finge, si odia. Una ragione viene vista nel fatto che la lingua bugiarda nasconde e ferisce, e ferendo non si ama, e se non si ama, si odia. L'odio nella mentalità comune è stato relegato ad essere ormai solo un sentimento. Perciò ci è di grande difficoltà accettare che, non dicendo la verità, ingannando il prossimo di fatto, stiamo unicamente manifestando il nostro odio. Considerando come la parola di Dio ordini del continuo di dire sempre il vero, di essere leali, e considerando come gli apostoli nelle loro lettere esortassero del continuo a dire sempre la verità, dobbiamo concludere che sia difficile dire le cose come sono. Il nostro moralismo ce lo impedisce. A volte si mente perché si pensa di non offendere, un'altra volta per non creare problemi, un'altra ancora per salvare una terza persona, e alla fine non si dice la verità. E pensare che se noi dicessimo sempre la verità, molti problemi sarebbero risolti. Vi è poi un'altra forma di inganno, usata molto di frequente nei rapporti con il prossimo, e lo esprime molto bene il libro dei Proverbi: come un pazzo che scaglia tizzoni, frecce e morte, così è colui che inganna il prossimo e dice ho fatto per scherzo. Ridere e scherzare è buono e lecito, ma quando lo scherzo serve per dire ciò che si tacerebbe in una situazione seria, esso diventa una forma di inganno, e tale inganno è collocabile nell'espressione di odio. 4. L'odio si manifesta quando non si corregge. Proverbi 13. Si discute da sempre sul giusto comportamento da tenere verso i propri figli. La parola di Dio ha una risposta. Quando è ora, usare la verga. Questo discorso, secondo le epoche, non ha valore o addirittura offende la morale. Ma Dio sapeva ciò che intendeva ispirare a chi scriveva. Come è scritto, la follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui. Nessun bambino, quindi, è tanto bravo da non indurre mai alla necessità dell'uso della verga come correzione. Come risulta evidente, l'Eterno parla di verga, cioè di qualcosa che faccia male. E la lezione è questa. Chi ama corregge e fa soffrire, chi non corregge non ama, anzi odia. Questo principio è valido anche per gli altri rapporti, come per esempio quello con il prossimo. Forse anche su queste verità qualcuno può avere dei dubbi, ma vorrei portarvi a fare una considerazione. Quando Gesù disse di amare il prossimo come se stessi stava dando un comandamento nuovo, o esprimeva il volere dell'Eterno scritto nella sua legge secoli prima. Ecco cosa troviamo scritto nel libro del Levitico al capitolo 19-18. Non farai vendetta e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono l'Eterno. Ma cosa aveva detto l'Eterno? Prima del comandamento di amare il prossimo. Non odierai il tuo fratello nel tuo cuore. Riprendi pure il tuo prossimo, ma non tirarti addosso alcun peccato per causa sua. Quindi l'ordine di Dio era quello di non odiarlo, ma piuttosto di riprenderlo. Quando il prossimo ci offende e questa offesa ci turba, non ci lascia in pace. Secondo la parola di Dio non è amore se noi ci passiamo sopra, ma odio. A volte noi crediamo di essere più spirituali con il silenzio, ma ancora una volta, non mettendo in pratica per fede la parola di Dio, ci rimettiamo, permettendo che i rapporti con il prossimo si incrinino. Correggiamo quindi anche duramente i nostri figli. Un giorno, quando loro stessi saranno dei genitori, ci saranno riconoscenti. Quando è opportuno e per il suo bene, riprendiamo pure il prossimo, perché come è scritto, chi riprende qualcuno troverà in seguito maggior favore di chi lo adula con la lingua. Chi si è comportato in questo modo sa che ciò è vero. Solo se li troverà in seguito non è sempre imminente, ma chi si comporta bene mieterà a suo tempo. 5. L'odio si manifesta in un'amicizia ingiusta. Luca 23:8-12. Quando vide Gesù, Erode se ne rallegrò molto, perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlare di lui, e sperava di vedergli fare qualche miracolo. Gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Ora i capi dei sacerdoti e gli scribi stavano là, accusandolo con veemenza. Erode, con i suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò da Pilato. In quel giorno Erode e Pilato divennero amici. Prima, infatti, erano stati nemici. Abbiamo detto che l'amicizia è una cosa preziosa, ma esiste anche un'amicizia che è il risultato dell'odio, quella che si sviluppa per i propri interessi. Questa forma di odio è più comune di quanto pensiamo. Pilato ed Erode erano nemici, ma quando i loro interessi si trovarono d'accordo, allora divennero amici. Questo è un po' quello che succede nella vita. Ci sono persone che non si sopportano, parlano male a vicenda, ma quando si tratta di colpire un'altra persona allora diventano amici. E questo è odio. E odio quando si cerca un alleato per appoggiare le proprie opinioni. Quando si fa comunella con qualcuno con il quale non si farebbe mai se le circostanze fossero diverse. Dobbiamo diffidare di tutti coloro che cercano la nostra amicizia per colpire qualcuno. Dobbiamo pure essere prudenti nel parlare con il prossimo. Nel libro dei Proverbi sta scritto: discuti la tua causa contro il tuo prossimo, ma non rivelare il segreto di un altro affinché chi ti ascolti non getti discredito su di te e la tua reputazione venga per sempre macchiata. Per accattivarci l'amicizia di qualcuno possiamo anche rivelare cose non rivelabili. E mentre noi pensiamo di compiere un gesto di amicizia nei confronti di chi ci ascolta, lui si creerà di noi un'opinione contraria. L'amicizia è buona, utile, edificante, ma dipende dall'uso che ne facciamo. Anche i giovani possono cadere nella trappola di un'amicizia sbagliata. Far parte del branco è una necessità innata, e la forza della persuasione degli altri può avere degli effetti devastanti se gli altri non hanno una morale cristiana. Sentirsi diversi, emarginati, considerati dei bigotti, antiquati, produce in tutti, ma soprattutto nei giovani, la necessità di intrecciare amicizie che però non sono approvate da Dio. Ciò non significa che un figlio di Dio non debba avere amicizie con persone che non hanno il timore di Dio, altrimenti i figli di Dio dovrebbero isolarsi dal mondo, rischiando così di cadere pure in una fede fanatica. Ma chi ha creduto in Gesù Cristo non può e non deve allacciare amicizie a discapito della propria fede. Erode e Pilato erano amici perché hanno nascosto le loro rivalità, così come un figlio di Dio può essere accettato da tutti se non rivela la sua fede. Per non cadere nel sincretismo, un figlio di Dio dovrebbe, nella maggioranza dei casi, chiarire innanzitutto la sua posizione di fede. Così in seguito, se viene accettato, potrà stabilire un'amicizia senza compromessi. È difficile dunque amare, perché a volte noi scambiamo l'odio per amore. Si può odiare quando non si parla amichevolmente, quando si sta in silenzio, quando si finge, quando non si corregge il prossimo. E i figli quando si intreccia un'amicizia ingiusta. Il vero amore è impegno, sofferenza. È azione, accettazione delle reciproche fastidiose diversità col desiderio di raggiungere il faticoso traguardo di una vita in comune, sia questa di amicizia, di fratellanza o di coppia. L'amore non è un terreno idillico, ma una faticosa conquista. È più che mai opportuno quindi terminare con le parole del Salmo 15, che se fosse letto ogni giorno, imparato a memoria e ancor di più messo in pratica, ci aiuterebbe ad evitare molti dolori. O Eterno, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? Colui che cammina in modo irreprensibile e fa ciò che è giusto e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, non fa alcun male al suo compagno e non lancia alcun insulto contro il suo prossimo. Ai suoi occhi è disprezzata la persona spregevole, ma egli onora quelli che temono l'Eterno. Anche se ha giurato a suo danno, egli non ritratta, non dà il suo denaro ad usura e non accetta doni contro l'innocente. Chi fa queste cose non sarà mai smosso. Chi ha questo comportamento irreprensibile non si troverà mai insicuro. Chi ha un comportamento irreprensibile ama il prossimo. E chi ama ha il cuore di Dio. Che questa possa essere l'esperienza di ognuno di noi. Aprile 2002, Ellero.